non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. 16 e 11 minuti primi, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera, noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore. Ora di buco.noblogs.org è il blog di questa trasmissione, su cui potete trovare molti materiali oltre alle trasmissioni precedenti che vanno in onda tutti i martedì sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Farò di te un vero uomo, ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò. 06 49 17 50 è il numero di telefono per raggiungerci in diretta. Con me, ricordatevi il libro di storia. Siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. E vi ricordiamo ancora una volta che questa radio dal maggio del 77 nell'etere di Roma e dintorni, senza pubblicità, senza partiti, senza padroni, con l'aiuto e il contributo di tutte e tutti noi, contributo che ovviamente continuiamo a invitare a versare con il conto corrente postale che è il 61804001, oppure con il PayPal da cui si accede dal sito della radio che è www.ondarossa.info, oppure venendo direttamente qua in via De Volci 50 a San Lorenzo. Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta. L'estate è arrivata quasi anche da calendario, visto che credo sia venerdì. E con questa la fine, insomma, della frequenza scolastica e l'inizio degli esami, invece di oggi, proprio di ieri era l'ultima prova scritta degli esami di terza media che ha interessato 600.000 studenti e studentesse in tutta Italia, l'ultima delle tre prove scritte, la, italiano, matematica, credo, e la terza in valsi. Mi sa che ho sbagliato, sono quattro perché c'è anche lingua. Comunque ieri c'era l'Invalsi e all'Invalsi tutti i quotidiani di oggi ci hanno tenuto a dire che c'era una domanda su Harry Potter. La seconda sul numero dei precari attestati in Italia nella fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni, una cosa del genere. Sì, in realtà era solo un pretesto per vedere se i ragazzi e le ragazze erano in grado di leggere o meno un grafico, però ecco, tutti i giornali di oggi parlano di questo, e cioè parlano di cose ben poco interessanti. Ma rispetto all'Invalsi, di cui da questi microfoni abbiamo parlato più e più volte, l'Invalsi è, diciamo, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo, è quell'istituto che impone prove in seconda e quinta elementare, terza media all'interno dell'esame di Stato, seconda superiore e in prospettiva pure alla maturità dall'anno prossimo. Ecco, si parla di questo sui giornali di oggi perché appunto ieri c'era la prova di terza media, l'unica che è proprio una prova d'esame, l'unica prova in valsi, quella di terza media che è proprio una prova d'esame voluta da Fioroni. Sì, l'unica prova d'esame che, come abbiamo detto, va a contribuire alla costituzione del voto con cui i ragazzi escono dalla scuola media, appunto, l'unica nel percorso di studi. E, si parla di questo anche sul Manifesto di oggi, con un articolo di Roberto Ciccarelli che ci racconta la condizione di precarietà in cui vivono i lavoratori e le lavoratrici dell'istituto Invalsi. Ci racconta quest'articolo che ci sono nella sede dell'Invalsi, che si trova a Frascati, 40 precari tra ricercatori amministrativi, informatici e collaboratori di ricerca e 25 assunti a tempo indeterminato. L'ente è commissariato da Paolo Sestito, alto funzionario della Banca d'Italia, che è appunto commissario di questo istituto dal febbraio 2012. Tra queste persone che sono lì come precari e precarie, c'è chi lavora da più di 10 anni, dopo aver firmato, avendo firmato anche 25 contratti tra Co e tempi determinati. A maggio 2013 si sono concluse le prove di un contestatissimo concorso per 13 posti a tempo indeterminato, che sono stati vinti da 12 interni e un esterno. Da luglio 2012, insieme ai sindacati, i precari storici hanno contestato i profili scelti dall'istituto perché discriminavano la loro storia professionale. Sono partiti ricorsi, ma in attesa dell'esito il commissario ha bandito un nuovo concorso a tempo determinato per 28 posti della durata di un anno. Le domande pervenute sarebbero circa 300, ma chi lavora da una vita per l'Invalsi oggi non ha alcuna certezza di continuare la sua attività, scrive Ciccarelli. Il prossimo 30 dicembre il suo contratto non sarà più rinnovato perché i revisori dei conti sostengono che non ci sono i soldi. Queste persone rischiano di perdere il lavoro e dovranno sostenere una guerra per un posto con i loro colleghi, scrive sempre Ciccarelli sul Manifesto di oggi. Una situazione grottesca per un ente sul quale anche la ministra dell'istruzione Maria Chiara Carrozza ha puntato il futuro della scuola. Nel prossimo anno scolastico, infatti, ricorda Ciccarelli, dovrebbe entrare in vigore il regolamento sulla valutazione, che estenderà l'attività dell'Invalsi obbligatoriamente anche alle scuole, non solo alle materne, alle scuole superiori, perché qui dice alle scuole, non solo alle medie, insomma. Il progetto prevederebbe anche l'estensione alle prove dell'esame di maturità. L'Invalsi si prepara a svolgere questi compiti con 25 assunti e 40 precari che scadono a dicembre e non sanno ancora se il loro contratto sarà prorogato nel 2014. A sostegno un plotone di consulenti esterni, ma è chiaro che l'Invalsi non ha le forze per sostenere un simile compito, scrive Ciccarelli. Beh, d'altronde, visto che l'Invalsi viene fatto a tutte le scuole, non a un campione di scuole, no? E, dovendo misurare il singolo studente, il singolo docente, la singola scuola, in realtà, come dire, sotto, questo lo conferma, diciamo, il senza oneri per lo Stato costituzionale, che si riferiva alla scuola privata, mentre di fatto è per la scuola pubblica, è stato, questi costi vengono riversati completamente sulle scuole e sui docenti, nel senso che oggi in tutti gli ordini e gradi delle scuole, quindi dalla seconda elementare in poi, il lavoro aggiuntivo viene fatto non dall'Invalsi come ente esterno che vuole oggettivamente misurare quello che le scuole producono, ma dagli stessi insegnanti che devono essere valutati, dagli stessi studenti che fanno le prove, ovvero gratuitamente i docenti somministrano le prove ai ragazzi e se le correggono. E obiettivamente questo si riflette anche nell'impianto del Sistema Nazionale di Valutazione, perché l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di questo argomento, il Sistema Nazionale di Valutazione si incardina in qualche modo sull'autovalutazione delle scuole, che è il primo passo sostanzialmente, e solamente in casi critici c'è l'intervento di ispettori esterni e così via, ed è un modo, direi, abbastanza surrettizio per imporre poi agli insegnanti di fare in qualche modo strumento di quella che è la valutazione imposta dalle Invalsi a sua volta. Io ora passerei a un brano musicale che introduce assolutamente degnamente il prossimo argomento. No, sono io che ho fatto confusione, questa volta non possiamo dare colpa a nient'altro che a me, che ho mandato due canzoni in contemporanea, ma rimediamo subito. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. là, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Una settimana. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, l'amore, amore. E sulle note ipersentimentali, insomma, della conclusione di questa canzone di Venditti, che ci sembra molto a tema appunto perché domani si apre la sessione 2013 degli esami di maturità, che sono previsti per 461.000 studenti e studentesse sul territorio nazionale, di cui 50.000 iscritti alle paritarie. Questi sono i numeri. Sì, quindi domani si comincia con la prova d'italiano, che non è, come magari molti delle persone che ci ascoltano ricordano, no? Che cosa esce domani, perché si aspetta un autore, un brano, un tema. In realtà l'esame di la prova d'italiano è molto complicata. domani mattina verso le 8:30 ci saranno le fotocopiatrici di tutte le scuole che impazziranno perché dovranno fotocopiare un fascicolo di circa una ventina di pagine, anche molto colorato, con disegni scritti eccetera, con delle tracce che si chiamano analisi del testo. Perché non arrivano più i carabinieri dall'anno scorso, fino a 2 anni fa sono arrivati i carabinieri con il plico, da Gentile in poi credo sempre la stessa modalità. C'era la H, sì. Invece dall'anno scorso arriva per email. Per email, quando qualche disagio c'è stato, però diciamo la segretezza dovrebbe essere garantita. E diciamo un po' di perplessità su come viene fatta la prova di italiano rimane, perché per esempio il saggio breve, che è una delle tipologie di prove che viene data, in realtà può essere affrontata ignorando completamente la questione, il problema che viene posta, il tema, perché vengono dati degli spunti scritti di diverse personalità, dalle quali, intersecando le quali, citando le quali, il candidato e la candidata devono elaborare un breve saggio. Ricordiamo. Sì, la prova di maturità di italiano, diciamo che adesso appunto c'ha un'ampia gamma di scelta, sì. Perché la tipologia A è l'analisi di un testo. Si presenta un testo poetico o di prosa, con una griglia per analizzarlo. Il testo B è appunto saggio breve, che dovrebbe essere, credo, nelle intenzioni del legislatore, una prova che vaglia la capacità sostanzialmente di scrivere una tesina, cioè di scrivere un testo citando fonti, eccetera eccetera. Però le fonti poi vengono fornite in riassunto là per là, perché insomma, come chiunque ci ascolta può capire, una tesi ha bisogno di fare delle ricerche, non è che nelle 6 ore in cui si... E soprattutto, se mi permetti, perché su questo fatto, su questa prova saggio breve, io ho tutte le mie perplessità. Una tesi, una tesina o comunque insomma un elaborato che voglia essere critico rispetto a un problema ha bisogno di un minimo di sedimentazione, cioè nessuno scrive né una tesi né una tesina in 6 ore senza conoscere la bibliografia di partenza in nessun modo. E quindi diciamo questa prova poi nei fatti, per le persone a cui sarà capitato di leggere, i colleghi e le colleghe a cui sarà capitato di leggere poi questi saggi brevi, diventa una libera espressione di opinioni del candidato, che in molti casi si orienta piuttosto poco e male rispetto ai riferimenti che vengono forniti, che per la mia valutazione modesta però sono in genere piuttosto alti. Poi ricordo un esempio? Sì, no, nel senso, prima dell'esempio che vedo nel monitor del tuo computer, cioè si spazia da argomenti per cui ci vuole almeno Umberto Eco per riuscire a darne una versione accettabile, appoggiato a un banchetto, tipo l'amore nella letteratura e nell'arte, è uscito davvero l'innamoramento, era a cose un po' specialistiche o anche un po' cretine, tipo gli UFO, perché è uscito pure gli UFO. Ah, ovviamente manipolazioni politiche. Sì, nel 2003 c'era questo argomento: l'acqua, risorsa e fonte di vita. Anche qui tema anche interessante, se vogliamo. Tra le fonti, i documenti dai quali partire, forse ai quali arrivare, nel senso che non si poteva forse andare molto oltre, e c'erano diverse anche scienziati eccetera, e veniva riportata questa frase: affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. È quindi fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche in un indispensabile contesto di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di quello sviluppo autosostenibile cui tutti dobbiamo dare priorità assoluta. Questa frase è tratta dalle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2002 ed è stata pronunciata dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, che sappiamo come ha trattato l'acqua come risorsa e fonte di vita, no? Quindi anche piuttosto una cosa al limite del ridicolo, ecco. Sì, direi di sì. E poi insomma ci sono altre 3 prove proposte comunque ai candidati e alle candidate, che sono temi il tema classico di storia, oppure il tema classico, quello che un tempo si chiamava d'attualità. E, insomma, più o meno questa è la prova d'italiano, sono sempre 6 ore e, come dire, il candidato e la candidata scelga a seconda del proprio sentire. Leggevo prima che si dice che il più gettonato per domani per l'esame per l'analisi del test è Ungaretti. Ovviamente sono delle cose che la gente dice a caso, insomma, lo sappiano che è a caso a come studiare. È sempre stato peraltro, Sì, l'anno mio si diceva Leopardi. Nonostante, come dire, circolano i voci di parenti, di amici, di politici che essendo, come dire, dentro le stanze del ministero possono accedere, e quindi grosse stupidaggini. No, io volevo aggiungere l'ultima cosa. Molti studenti non sanno cosa scrivono, e questo lo abbiamo detto, ma in realtà non sanno cosa scrivono neanche coloro che elaborano queste tracce. Memorabile rimane nel 2008 la giornata, il primo giorno dell'esame, la traccia riportava appunto come analisi del testo la poesia di Eugenio Montale, Ripenso al tuo sorriso, e si chiedeva ai candidati di trovare nel testo il ruolo salvifico della figura femminile. Peccato che quella poesia, quei versi erano dedicati da Montale non a una donna ma a un amico, come è stato subito poi fatto notare al ministero, che ha detto, non si è scusato, ha detto ma la traccia funziona uguale. È la stessa cosa in fondo. E quindi sarà la stessa cosa scrivere scrivere qualsiasi cosa. Diciamo che domani molti ragazzi consegneranno prima delle 6 ore per, come dire, per salvaguardare la propria, come dire, integrità psicofisica con questo caldo. Comunque, per tornare a questa maturità, è una maturità che è così disegnata dal 2007, cioè è, come dire, frutto delle elaborazioni di Fioroni e del suo staff, nel senso che la maturità ha avuto una sua storia, insomma, in questo paese, ripercorsa questa mattina dalla Stampa, con della Stampa di Torino, con delle testimonianze curiose, tipo, non so, Cremonini, quello il cantante che ci raccontava la sua maturità, insomma, non si sa come l'avevano scelti questi che raccontavano le varie maturità. Comunque si parte appunto dalla riforma Gentile, con la maturità di cui tutti quelli che hanno di quella generazione si ricordano, e cioè tutte le materie del triennio sostanzialmente, e si portavano tutte le materie del triennio con una commissione tutta di esterni. Poi siamo passati a tutte le materie di un anno con una commissione tutta di esterni, e poi la riforma nel 69, quella maturità che per esempio i presenti in questa stanza hanno fatto tutti, cioè, perché è durata 35 anni la maturità, così come è partita nel 69, vi ricorderete, insomma, era quella cosa, 4 materie di cui però se ne portavano 2, una scelta, una la dava la commissione ma in realtà la sceglievi te, però la commissione forse te la cambiava, sì. 2 scritti, sì. La commissione tutta esterna, con un membro interno un po' disgraziato. Il tuo avvocato, che doveva fare di tutto, anche prostituirsi per evitare sorprese sostanzialmente, e, fino a quella di oggi che... No, nel mezzo c'è stato lo step Berlinguer che ha istituito tutte le materie con una commissione tutta di interni. Eh sì, e poi è tornata invece mezzi esterni e mezzi interni con Fioroni. Esatto. Sì, nella maturità attuale rispetto a quella precedente, quella che abbiamo fatto noi, in realtà è stato aggiunto uno scritto sostanzialmente, la cosiddetta famigerata terza prova, che abbiamo capito oggi, fin dal decreto istitutivo, in realtà doveva essere, se non altro, indirizzata a cura dell'Invalsi, del neonato Invalsi, credo, e che invece fino all'anno prossimo, quando in via sperimentale verrà redatta appunto dall'Invalsi, viene fatta a cura delle singole commissioni. Per cui abbiamo 2 prove nazionali, con una prima prova comune di italiano e una seconda variabile, matematica, latino, greco, lingua straniera e così via, e una terza prova invece che è delle singole commissioni. Non so se sì, no, ricordiamo che questa prova prevede questa presenza dei crediti, no? Quindi la considerazione del triennio dello studente, della studentessa, che si porta alla maturità, che entra alla maturità con un bottino più o meno ampio in base calcolato in base alla media del triennio, degli ultimi 3 anni delle scuole superiori, diciamo, quindi questo era... Sì. Il linguaggio aziendalistico è tutto di Berlinguer, insomma, i crediti e i debiti sono entrati allora. Non ci stupisce, sono entrati dovunque, i crediti e i debiti sono entrati anche all'università, in particolar modo i crediti, perché debiti all'università non ce ne sono. Comunque siamo andati prima a vedere la percentuale, insomma, di distribuzione dei voti, e sono 45 punti per il punteggio degli iscritti, 30 punti per la valutazione attribuita dalla commissione all'orale e 25 punti, che sono abbastanza, insomma, è quanto pesa invece l'attribuzione dei crediti del triennio della scuola superiore. Sì, questi crediti peraltro non vengono tutti dai voti ottenuti negli anni precedenti, ma ci sono i cosiddetti crediti extrascolastici, cioè studenti e studentesse sono invitati a portare certificazione di attività che svolgono fuori dalla scuola, non so, il calcio, o studiano musica, o studiano un'altra lingua straniera, o fanno volontariato, e questo gli dà qualche credituccio in più. Sì, sono decimali che vengono accumulati ogni anno, ripetiamo, nell'ultimo triennio, e che possono far oscillare la banda da 6 punti invece a 7, 7 piuttosto che 8. Ricordiamo la che la politica non dà crediti. No, cioè fare parte di un collettivo o anche di un partito, anche perché ricordo di essere stata in un consiglio di classe in cui una ragazza sollevò una polemica per il fatto che lei faceva parte di un partito e non, i suoi crediti non valevano. Ma io ricordo, non lo so, poi questo dipende molto dalle singole scuole. Ricordo che molte scuole come dire, premiano il fatto che uno studente o una studentessa siano impegnati nella, chiamiamola, politica nella scuola, quindi se sono rappresentanti di istituto oppure rappresentanti semplicemente di classe, questo comunque fa parte di un bilancio che viene, come dire, affrontato e trattato negli scrutini, quindi è sempre a discrezione delle singole scuole. Sì, no, infatti, perché è chiaro che la percentuale di oscillazione, cioè quanto tu effettivamente acquisisci con questi crediti, è veramente minima, però il problema, almeno a mio modo di vedere, è che questo provvedimento apre un margine di discrezionalità nella valutazione delle cose, perché per esempio io ho presenti scrutini in cui viene dato un certo peso per esempio ad attività di volontariato svolte in parrocchia, piuttosto che a attività più o meno consistenti, insomma, svolte a seguito di insegnanti di religione e così via, insomma, per cui il problema è che, appunto, a prescindere dalla considerazione che chi può fare un corso di lingua, chi può seguire un'attività sportiva ad un determinato livello, viene comunque in qualche modo agevolato, l'alternativa, stante il fatto che la politica non fa credito, sono in molti casi, almeno a me noti, le attività in qualche modo sotto l'egida della Chiesa. Io manderei un'altra canzoncina per poi continuare a parlare di maturità collegandola alla parola percentili. Avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese. Quei ricordi ormai sbiaditi, rieccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge e è difficile cambiare. E per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta. A volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scalda. Noi che andiamo contro vento, ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. È difficile arrivare puntuali di mattina, quando la notte è lunga e il freddo ci consuma questa vita che ci illumina d'immenso. C'è una stella da raggiungere che se no non ha più senso, e ti accorgi in un istante che saranno tempi duri e c'è solo una risposta. A volte siamo un po' in mare, come il cielo all'improvviso, come il buio in un sorriso. Noi cerchiamo una risposta, ma poi quando la troviamo scappiamo via. Come il cielo del mattino, nello sguardo di un bambino. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai. Riprendiamo l'ora di buco e riprendiamo la questione un po' delicata del bonus maturità che da quest'anno parte e che serve per il test di ammissione nelle facoltà a numero chiuso, facoltà che test di ammissione nazionale per le facoltà di medicina, architettura, scienze infermieristiche e veterinaria. E veterinaria, sì. Per queste facoltà c'è un test di ammissione che è stato spostato dal neo ministro Carrozza rispetto alla data stabilita da Profumo, quindi sì, non più subito dopo la maturità a metà luglio, ma a settembre, visti come dire il numero bassissimo di studenti e studentesse che avevano chiesto di fare questo esame. Peraltro sì. No, ecco, volevo ricordare questo, sì. Il compagno mi vedeva che gli facevo gesti, cioè che le politiche del ministro Profumo, in maniera forse non isperata dalla gestione stessa Profumo, hanno prodotto un calo drammatico di iscrizioni all'università, sì. Al punto che in alcune facoltà, segnatamente per quello che ho presente Tor Vergata, sì. Addirittura sarebbero state inutili le prove di ammissione per le facoltà a numero chiuso, perché le domande pervenute al termine della scadenza erano inferiori rispetto ai posti disponibili. Ci sarebbe stato posto per tutti, ecco. Questo esatto. È una cosa che in qualche modo va collegata con questo tipo di politica, ma anche evidentemente col taglio di quelli che sono i finanziamenti per il diritto allo studio, che è stato piuttosto pesante nel corso di questo anno accademico, diciamo così, per rivolgerci alla tempistica universitaria. Quindi grande allarme da parte delle università che hanno visto crollare le prescrizioni ai test, e anche quindi un danno economico, perché mi pare che soltanto per chiedere di fare questo test bisogna pagare 35 euro, e quindi facciamo un conto delle migliaia di studenti e studentesse che non si sono preiscritte a questo test nazionale, quindi Carrozza è dovuta ricorrere ai ripari. Sollecitata dalla CRUI, che ha preso posizione anche. La conferenza dei rettori. Sì. Sì, non perché era tutto folle, ma perché diciamo c'è un danno economico immediato e anche a lungo termine che poteva diventare consistente. Quindi questi test verranno fatti a settembre quest'anno, l'anno prossimo addirittura ad aprile, mentre gli studenti stanno facendo lezione, diciamo, non sanno neanche se saranno ammessi o se potranno sostenere la maturità. Sì, a italiano staranno facendo svevo, ecco, per capirsi, a storia forse il fascismo. Matematica, le derivate e qualcos'altro. No, dicevamo che quindi ci sono da quest'anno novità, bonus in base a che cosa? Il dubbio rimane, nel senso che anche qui Carrozza ha dovuto consultare gli esperti del ministero e correggere quello che aveva stabilito Profumo, ovvero che chi prende da 80 a 100 secondo Profumo poteva accedere a un bonus che però non era uguale per tutta Italia, ma dipendeva dalla media della dei voti ottenuti dalla scuola nell'anno precedente. Questo aveva, era, diciamo, tutta questa macchina è stata messa in moto da Profumo negli ultimi mesi durante, come dire, con la vacanza del governo, e ha prodotto adesso, diciamo a maggio, ci si è resi conto che avrebbe prodotto degli sconquassi, delle ingiustizie proprio molto evidenti. Quindi nelle scuole in cui ci sarebbero state molte scuole in cui 80 significava il massimo e quindi il massimo bonus, e con 99 o 100 in altre scuole non si prendeva il bonus, quindi una disparità un po' folle. E la protesta è stata anche qui piuttosto ampia, e il ministro Carrozza ha così rimediato. Sì, diciamo, il ministro Carrozza ha ritenuto di dover rimediare, e già questo è abbastanza stupefacente, nel senso, il decreto legislativo con cui veniva istituito il nuovo sistema di acquisizione del bonus maturità è del 24 aprile, e il ministro Carrozza ha rimediato, per così dire, con un decreto ministeriale del 12 giugno, quindi proprio sulla soglia dell'inizio degli esami di maturità, perché si correva il rischio di iniziare l'esame con criteri non certi, e questo, diciamo, è il primo aspetto stupefacente. C'è da dire che le, diciamo, sperequazioni o comunque i problemi legati all'attribuzione del bonus di maturità nella vecchia versione in qualche modo derivavano dal fatto che si partiva dal presupposto che le commissioni in maniera immotivata fossero troppo larghe di voti in qualche modo, e che conseguentemente venivano agevolati in qualche modo nell'acquisizione del bonus di maturità agli studenti di quelle scuole dove nell'anno precedente i risultati erano stati peggiori. E tra le altre cose che avevamo fatto notare è che questo andava evidentemente a vantaggio degli studenti che fanno la maturità nelle scuole paritarie, dove solitamente, per varie ragioni che non stiamo qua a diciamo analizzare, i risultati sono peggiori, più bassi per la presenza di privatisti e così via. In seguito, appunto, alle proteste critiche che appunto sono venute dalla CRUI, ma sono venute evidentemente sono venute dagli studenti anche, e soprattutto la ministra, dai dirigenti scolastici, certo, perché nella stessa scuola, per esempio, con due indirizzi il voto di maturità valeva diversamente in relazione ai due indirizzi e così via, e ne abbiamo parlato in una delle scorse trasmissioni. La ministra ha ritenuto di dover cambiare questo sistema, e lo ha cambiato adeguandolo in qualche modo, addolcendolo, nel senso che il bonus di maturità adesso spetta sostanzialmente a tutti gli studenti che abbiano preso almeno 80 centesimi alla maturità, sì, e quindi non spetta a chi ha preso meno di 80 centesimi, cosa che invece nella precedente versione era possibile in qualche caso, e però che superino l'ottantesimo percentile rispetto alla propria commissione di esame. Quindi la parametrazione non è fatta più rispetto ai risultati della propria scuola o del proprio indirizzo di scuola per l'anno precedente, ma è fatta rispetto ai risultati della propria commissione di esame. Sostanzialmente, per averlo devi essere andato meglio dell'80% degli studenti che hanno sostenuto l'esame con la tua stessa commissione insieme a te. Il che significa, è stato notato, diciamo, piuttosto rapidamente, che si tratta di una statistica fatta su 40-45 persone al massimo, perché normalmente in una commissione di esame si uniscono due classi che possono contare 20, 21, 22 o 23 persone, ma non di più. E quindi questo si basa su una statistica molto stretta a livelli di numeri, ed evidentemente sul principio che la distribuzione degli studenti all'interno delle commissioni sia sostanzialmente omogenea, che quindi sia possibile per questo parametro statistico identificare il 20% migliore rispetto a un 80% peggiore, cosa che normalmente non è, perché la distribuzione è piuttosto ancorata forse agli istituti, alle loro caratteristiche e così via. Sì, quindi sostanzialmente bisognerà essere tra i primi 8 o 10 della propria classe e della classe accanto, la stessa classe inserita nella, casualmente così, in una, che forma una commissione, e poi in base a questo, se hai preso 80, almeno 80, se sei tra i primi 8 o 10 della tua classe, di quella a fianco, allora c'è una tabella che ti dice quale bonus puoi portare in questo test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Anche la tabella è cambiata, perché prima la distribuzione del punteggio era diciamo a 2, 4, 6, 8, 10 punti sostanzialmente, mentre invece la tabella l'ho qua davanti e va di punto in punto, cioè per la forchetta tra 80 e 82 si acquisisce un punto sempre se si è superiori all'ottantesimo percentile, tra 83 e 85 due punti e così via dicendo fino ad arrivare a 100 e lode, che è l'unico voto che corrisponde ai 10 punti. E forse appunto è il caso di ripetere ancora una volta cosa che abbiamo detto più e più volte, su cui forse ci soffermeremo anche dopo, che questo è evidentemente un modo per indicare con chiarezza nei fatti che una maturità presa in un istituto, in una commissione, in una scuola non è uguale addirittura a quella presa nella commissione accanto, sostanzialmente. Sì, per indicarlo con altri termini significa cancellare il valore legale del titolo di studio. Ne abbiamo parlato altre volte. Io ritengo che sia uno dei tasselli più importanti che mancano da raggiungere nella scuola neoliberista per distruggere il sistema pubblico dell'istruzione, cioè dire che diciamolo esplicitamente, insomma, che una maturità presa al tasso vale una cosa, una maturità presa in un liceo di provincia ne vale un'altra, e così via, e quindi con dei criteri che oggettivamente rispettano poi la classe, la distribuzione geografica, eccetera eccetera. E evidentemente chi è stato al governo della scuola negli ultimi 20 anni, e anche poteri forti che ci stanno intorno, tengono molto a questo, e per questo volevamo scorrere velocemente. Prego. E volevo solo dire un'ultima cosa rispetto a questo, cioè è vero tutto quello che abbiamo detto, il sistema non verrà nei suoi cardini rimesso in discussione, però quello che già la ministra ha anticipato è che cambierà ulteriormente il sistema di attribuzione del credito scolastico e di accesso alle facoltà a numero chiuso, perché la ministra ha convocato una commissione ancora una volta di saggi. Che, ma quanti saggi ci sono in questo paese? Siamo tutti saggi. E che ha appunto il compito per il prossimo anno scolastico, anno accademico, di valutare i nuovi criteri, ancora una volta equi, ancora una volta oggettivi e trasparenti, per l'accesso alle facoltà a numero chiuso. È interessante, ma solo un attimo, buttare un occhio sulla composizione di questa commissione, che tra le altre cose è coordinata e presieduta da Bernardo Giorgio Mattarella, che è diciamo figlio di Sergio Mattarella, per intenderci l'autore, il padre del Mattarellum, e che è stato già in passato consulente di Brunetta per la Civit, tanto per parlare di continuità e discontinuità nella gestione della pubblica amministrazione, in questo caso specifico in particolare della scuola. E poi francamente un altro nome che gela il sangue è quello di Luigi Frati, il discusso, oltremodo discusso rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dopodiché, che va bene, c'è Carmela Palungo, che è direttore generale del MIUR sostanzialmente, e poi una serie di figure diciamo così più tecniche, cioè ordinarie, afferenti alle facoltà che sono coinvolte nell'accesso a numero chiuso, in buona sostanza. Però a queste persone è affidata la definizione. Va ulteriormente specificato che i rappresentanti degli studenti alla consulta studentesca sono stati esclusi, nonostante le reiterate proteste perché venissero ammessi almeno a livello di rappresentanza in questa commissione. Per arrivare ai poteri forti che ci tengono molto a che venga cancellato il valore legale al titolo di studio, sulla Stampa di Torino di questa mattina è stato pubblicato un intervento di Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanna Agnelli, il quale parla proprio di questo bonus maturità per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, dice che è cosa buona e giusta, eccetera eccetera. Insomma, non ve lo leggerò tutto. Dice che le polemiche a suo parere sono del tutto insensate rispetto a un processo che si chiama normalizzazione del voto, quello di non dare a tutti i voti lo stesso peso sostanzialmente, e poi arriva a spiegare perché. Veniamo alla questione realmente importante, scrive: questo dibattito sul voto di maturità e sui test di ammissione all'università ha messo in luce la contraddizione fra l'attuale esame di maturità, modificato sin nel corso dei decenni ma in fondo improntato a vecchie concezioni, e la necessità delle università di poter confrontare le capacità di studenti che provengono da scuole scuole regioni diverse. Un'irrinunciabile esigenza di equità nel caso di corsi ad accesso limitato. Man mano che altri corsi di laurea, ad esempio quelli economici, richiederanno forme di selezione in ingresso, non necessariamente una scelta lungimirante, scrive Gavosto. In un paese dove solo il 55% dei diplomati si iscrive all'università, ma resa necessaria dalla riduzione delle risorse. Cioè lui si rende conto, ma comunque persevera. La contraddizione si farà più acuta, scrive. In astratto è difficile dire se sia preferibile un test d'ingresso all'università o un esame di maturità, comunque profondamente da riformare. Che fra le due prove vi sia però una certa ridondanza a me pare evidente. Poiché un esame finale alle superiori deve comunque esserci, non tutti i diplomati infatti si iscrivono all'università, e poiché fra due anni dovremmo rivedere gli attuali meccanismi a suo tempo introdotti sperimentalmente dal ministro Gelmini, non è forse giunto il momento di riflettere seriamente su come rendere i risultati dell'esame di Stato finalmente confrontabili su scala nazionale? Perché secondo lui manco sono confrontabili quelli di ora. Solo così elimineremo lo scarto fra l'epopea emotiva che la vecchia maturità ancora rappresenta e la sua sempre più scarsa utilità come strumento di valutazione delle competenze dei diplomati. Che dire, insomma, innanzitutto i nostri colleghi e le nostre colleghe che da domani per 300 euro gli interni, 900 gli esterni, lordi, si trovano là per 20 giorni, stanno facendo una cosa inutile, secondo la Fondazione Agnelli. Sì, stanno facendo una cosa inutile, non confrontabile, anche perché quando si parla di ridondanza dell'esame di maturità e della prova di accesso alle facoltà a numero chiuso, evidentemente sembra proprio dimenticarsi, ci si dimentica del fatto che la prova di maturità è comunque una prova strutturale, che prevede come che sia tre scritti, un orale e tiene conto di un percorso scolastico. La prova di accesso agli esami di accesso alle facoltà a numero chiuso sono 90 quiz a cui a crocetta con a risposta multipla, insomma, e questa sarebbe la ridondanza. Sinceramente, con tutto quello che noi abbiamo sentito rispetto al problema della valutazione e con tutta la difficoltà di cui ci facciamo carico ogni volta che tentiamo di valutare i nostri studenti, sinceramente questo sembra agghiacciante. Sì, è agghiacciante anche il fatto che l'università voglia questo, entrare con queste modalità dentro, come dire, il sistema della scuola superiore, che diciamo, il cui problema non è certo l'esame finale. No. E quindi tutto questo meccanismo di cui oggi noi stiamo descrivendo come dire, la complessità, le correzioni eccetera, in realtà dietro c'è molto e sul quale il ministro Profumo e anche il ministro Carrozza l'uno ha perso la faccia, l'altro ha dovuto correre ai ripari, in realtà nasconde il fatto che come dire, il sistema istruzione in Italia deve essere attaccato e abbattuto, e quindi anche lo studio che si sta facendo sempre al Ministero dell'abolizione dell'ultimo anno delle scuole superiori rientra in questa fase. Infatti molti vorrebbero che sia direttamente propedeutico all'ingresso nelle università. Allora, il problema è che molti non vanno all'università e quindi, diciamo, solo questo è il problema, e pare, no, a sentire questo intervento che abbiamo letto dalla stampa. Tutta una serie di dettagli ce li dimentichiamo. Che il diritto allo studio solo per queste tre parole messe in fila dovrebbe significare che chiunque si può iscrivere alla facoltà che vuole. B, sì. Che lo Stato dovrebbe, gli enti locali, fornire per il diritto allo studio appunto la possibilità di frequentare una facoltà universitaria anche a chi per risorse personali o familiari non ce l'ha, invece sostanzialmente le borse di studio sono state cancellate. Sì. Dopodiché viene tutto il resto, insomma, certo. Compreso il fatto che gli iscritti sono pochissimi, sono scesi, ma chi si laurea è un numero infinitamente più basso, inferiore, certo. Quindi diciamo il fallimento è sotto gli occhi di tutti, però il problema rimane il bonus. Invece, se ci fosse qualche candidato all'esame di maturità di domani, vi informiamo che i giornali redatti da giornalisti saggi, più saggi di tutta Italia, cioè Repubblica e il Corriere, oggi offrono Repubblica nella sua versione online, una pagina sugli amuleti da portare all'esame di maturità, e il Corriere della Sera invece offre nella sua versione cartacea un articolo a pagina intera in cui parla di come dovrebbero comportarsi i genitori la notte prima degli esami dei propri figli, cioè se è meglio stare a assillarli di domande o lasciarli nel loro brodo. E saggiamente la risposta è che la virtù sta nel mezzo, e quindi è meglio non nell'uno nell'altro eccesso. Detto ciò, d'estate, la pagina accanto è che d'estate fa caldo. Bisogna bere molto. E bisogna bere molto. E mangiare carote e non carne di maiale. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, credo, per l'ultima puntata dell'anno scolastico 2012-2013, forse. Cara maestra.